Non ce la faccio più. Avrei bisogno di una pausa. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non ce la faccio. Come uno spettro che urla a squarciagola, chiuso in una camera fredda sempre più scura. Sì. Piango quasi sempre perché adesso io ho paura. E non riesco a uscire più da queste quattro mura. E cresco, registro già, ma ancora niente. Sono stanco di cercare un fottuto genere. Nessuno mi prende, entrare troppo dura. Guarda, non mi pento, l'anima c'è chi laggiù. E sono stanco che i miei amici a volte mi prendono in giro. Forse avrà ragione, io sono proprio un cretino. Credo in un sogno e non me ne vergogno. Oggi ho lavorato in straordinario tutto il giorno. Il capo che urla, la psiche che crolla, l'ex che ti chiama dopo che si è fatta burla. Di te, anche se dice che ti ama ancora, e i suoi amici che pugnalano sempre solo la schiena. E penso che io son da solo, penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Penso che io son da solo, penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Mi sono il primo a dire che non valgo un cazzo, ma sono solo a dire che non sono un pazzo. Vorrei riuscire a crearmi solo uno spazio. Sono incazzato, sto disco dopo lo sfascio. E mio papà ha una vita che sta a lavorare. Ha sempre fatto tutto per poi farci stare bene. Ma no, non sono riuscito neanche a ricompensare. Pensa quel che vuoi, ma per me è una presa a mano. E ti confesso una cosa, quante volte ho sbagliato. Questa è la conferma che sono un malato. E una sera ho pensato seriamente al suicidio. Volevo buttarmi dal terrazzo del mio studio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ascolta le parole di un mondo che non è mio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Aiutami a capire bene chi sono io. E penso che io sono da solo. Penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Penso che io sono da solo. Penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. I veri amici io ne ho trovati pochi. Adesso dai, finiamola con tutti questi giochi. Amico dell'onore, amico del favore, amico che poi ruba la ragazza del mio cuore. E poi io sono stanco di questa gente a branco, gente che poi osa darmi pure del vigliacco. E non chiedermi perché non son famoso, forse questa gente mi considera penoso. Sono un perdente ma indipendente, che a fine mese lo stipendio è poco e niente. Le preferenze andranno avanti sempre, in questo mondo vince chi ha tante conoscenze. E penso che io son da solo, penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Penso che io son da solo, penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Penso che io son da solo, penso che non c'è nessuno intorno a me. Parole, coincidenze, mezze frasi e scuse. Questa è la mia rabbia. Questa è la mia vita. Ti prego Dio, non scordarti di me.